E così, chiotto chiotto, il vibrione del colera è arrivato in Piemonte, ha fatto la sua comparsa, come tutti saprete, in una partita di Sepien in un supermercato del Canavese, in provincia di Torino. Niente paura, assicurano le autorità, è un caso isolato. Le seppie in questione non vengono neanche dalla Puglia, in particolare che non capisco perché dovrebbe tranquillizzarmi. Basta seguire le normali precauzioni igieniche, astenersi dal consumo di pesce crudo e siamo a posto. Le ripetizioni, come si sa, giovano. È da più di 2 settimane che ogni caso di malattia, ogni avvistamento di vibrione, viene pervicacemente definito un caso isolato. E naturalmente ha ragione. Per decidere che un caso sia isolato, basta mettersi d'accordo prima sui criteri statistico-posizionali utili per definirlo tale. E 1 su 1000, 1 su 10.000, 1 su 100.000, su 1 milione, 1 in un comune, 1 in una provincia, 1 in una regione, 1 in un continente. Sono tutti casi isolati, anche se caratterizzano fenomeni di dimensioni via via diverse. Quando la definizione viene fatta da una fonte autorevole, non è neanche necessario mettersi d'accordo, perché si sa già che è un caso isolato in base all'autorevolezza di chi lo definisce tale. E così, di caso isolato in caso isolato, abbiamo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 10 malati, ma malati, insomma, erano degli anziani, i soliti vecchietti allergici alle precauzioni igienici, perficacemente inclini ad abboffarsi di seppie crude, e in fondo se la sono voluta. Poi il vibrione è stato individuato nelle fognature di Bari, ma non è neanche il caso di parlarne, perché se ci sono dei malati ci sarà anche il vibrione, e nelle fognature prima o poi lo si finisce col trovare, e il pesce comunque fa benissimo, seppie comprese, basta cuocerlo, e i ministri si sono fatti vedere a gara mentre al mercato del pesce brandivano naselli o accarezzavano branzini. E poi qualche rompiscatole ha trovato il simpatico bacillo in una partita di finocchi, ma anche quello è un caso isolato. Era uno sconsiderato agricoltore che erorava la verdura con acqua da fogna, pratica di cui finora ero all'oscuro, ma d'ora in poi non mi fido più tanto. I finocchi e gli ortaggi in genere sono buonissimi e sono assolutamente non pericolosi. Il bacillo si aggrappa soltanto alla superficie e basta lavarli con cura. Anzi, la verdura va sempre lavata con cura, anzi, visto che ci siamo è meglio cuocerla sempre, compresa l'insalata, no? Non sapete che delizia è lo stufato di lattuga o lo spezzatino di scarola. Adesso che l'ultimo caso è stato trovato a 1000 chilometri di distanza dal primo, mi raccomando, non venitemi a parlare di diffusione della malattia. Il ministro della Sanità, l'onorevole Costa, che personalmente non è un caso isolato perché di riciclati come lui sono pieni governo e Parlamento, visto che aveva lo stesso incarico nel deprecato governo Ciampi e probabilmente lo avrebbe anche se alle elezioni avessero vinto i progressisti, per ipotesi, il ministro Costa dunque si arrabbierebbe davvero. D'altronde basta fare come lui, che è di Cuneo, dove i finocchi vi ripassano sempre al burro, e a mangiare pesce crudo, con l'unica possibile eccezione delle acciughe nel vitel tonè, non ci pensano nemmeno. Lui è un uomo di sicura competenza, il suo mestiere lo sa fare. Peccato, naturalmente, che il suo mestiere, oltre a quello di vietare il consumo di pesce crudo con apposito decreto, sia quello di smantellare quanto più possibile del servizio sanitario, di tagliare quanto tagliabile dal relativo bilancio, e che la sua competenza si misuri, in un governo o nell'altro, con una maggioranza o con l'altra, esclusivamente sul numero di ospedali che riesce a far chiudere. È ovvio che la sola precauzione igienica necessaria sarebbe quella di liberarsi di lui.